Allora, ieri qui per l'iniziativa Ende Gelände è arrivato un treno da Praga, mi sembra, che è stato fermato e tutte le persone sono state controllate. Diciamo che si sono fatti la giornata finale, dalle 11 alle 18 per questo controllo. E sono arrivati alla città di Buir, che è dove arriva appunto la linea del treno. Nel frattempo il campeggio era stato sgomberato e poi ricostruito e in serata, quando siamo arrivati noi, il campeggio ospitava già 3.000 persone. Ci sono state poi delle assemblee organizzative riguardo la giornata di azioni. Ci si è divisi in fingers, quindi in gruppi con dei colori. E ogni gruppo ha delle persone con delle bandiere evidenti da seguire. Questi gruppi sono ufficialmente divisi in regioni, poi in realtà ci sono molti internazionali, quindi si sono fatte anche in inglese poi le assemblee, insomma non è esattamente una cosa solo tedesca. Questi fingers cercheranno di arrivare a Buir oggi, appunto dove ieri sono arrivati i treni, che è il paese dove c'è la manifestazione che apparentemente è legale. Ieri sera era ancora in via di legalizzazione, ma pare sia legale, poi tutto è possibile. E dal campeggio di Ende Gelände sono già una decina di chilometri che faremo a piedi per raggiungere quindi appunto la cittadina di Buir. Da lì poi probabilmente l'intenzione è quella di arrivare verso la ormai ex foresta di Ambach, quindi dove c'è, diciamo, quella vallata in cui viene prodotto appunto il carbone. Si cercherà di appunto fermare i lavori e fare dei blocchi. Questi blocchi dovrebbero durare poi tutta la notte fino a domani, quindi ci si sta preparando per la notte. No, errata corrige, in realtà non arriveremo a Buir, ma arriveremo a Ellen, che è un paesino diciamo, più spostato verso ovest. E la difficoltà è che c'è una strada che si chiama Zeku Strasse, cioè la strada della security, che passa proprio di fronte a Buir, e quindi molto probabilmente per questo si è deciso di andare verso Ellen. Quantomeno il finger a cui stiamo aderendo noi. E vabbè, vediamo di capire qualcosa in più tardi, perché poi qua anche le cose cambiano, ci sono poche indicazioni, le cose cambiano molto velocemente.